fare, no? Avanti, Pompo! Al telefono, stavano parlando di questo limitatore, di che costa 400 euro. Ma che ci devi comprare oggi al sole, non tu? Oh, capo, mi bongo io. Mancare di fare a tutto canto. Ho visto che... Vabbè, tipo da Maurizio cosa pone un limitatore, poi pum pagando voi. Lì sì, vabbè, lì alla fine sono... Come si dice? Sono fuce, cioè, abitare poca, no, ma non crea problemi. Ma cosa? A prendere niente, non vuoi un'anima. Lascia vedere Massimo Melis, per cavolo, Vettori. Vettori tenuta. Capodanno 2022. Per cavolo, sala provinciale? Adesso vediamo di organizzarlo pure noi il capodanno. Io lo sto dicendo a lui. Raga. A Costantino. Speriamo, ma me lo deve dire subito, se no io devo vedere anche. Se trovo un altro posto lo faccio lì. Non lo so. Cosa facciamo? Cavolo, io sto proponendo di buttare un poco di tutto, una deve fatta al forno in occhi, una cosa che dà, un poco di tutto e poi si fa il cenone. Cioè, diciamo, quello che riusciamo a fare. Si potrà anche organizzare, ognuno porta un qualcosa a casa e si fa lì, senza toccare bevande di loro, spumanti e quant'altro. Chiappa, però lui mi deve già dire cosa cazzo può fare la mano pure, perché io non lo so, se a me mi chiama il cazzo che vuole fare una serata di capodanno, io cosa faccio? Non la faccio. Lui mi deve dire cosa vuole fare da grande. Non lo so, se vediamo da... come la situation, capite? Se stiamo bene, chi lo sa? Ma guarda che non ci vuole molto arrivare quel giorno. Non ho capito, scusa. Che non ci vuole molto, mi. Ma per che cosa? Arrivi a capodanno. Ma non è per quello, insomma, si organizza. E poi mai sei male. A me è successo la capodanno, sono stato male, capito? Già lo so, però queste cose si programmano prima. Io adesso, quando è venerdì, tento di dirglielo, ma cosa vuoi fare, gli dico. Vabbè. Ma tagli non andate a cenare. A Cantubari, sì. No, sono qui, sono in ascolto, là. Cazzo, questo basta da 464. Il compagno di Micaela Clexi, la cinquantenne rumena uccisa nella sua abitazione a Corso Sant'Elena. Praticamente lui è di Cagliari, Sandro Sarais, 56 anni. Cazzo, allucinante, ci ammazzare le persone. Lui urlava, ti ammazzo, mentre lì lo evitava andarsene. E poi l'ha ucciso. Cosa vuoi da è gente che non ha cuore di niente. Cioè, gente che ho pigliata e rinchiusa e basta. Ma qua in Italia la legge è di merda. Ma che non lo sai? Ci così ribelle, dove c'è nel cudino e non bugganni mai più però. Io se mi ho preso una donna l'ho presa per volerla bene, non per fare queste cose qua. Cazzo, ci mancherebbe. Se poi non mi vuoi più, ciao, tanti saluti, arrivederci. Così è. La stai lì a giallire palle, non ti vuoi più, finito, basta. Soffri per le mani, sei un innamorato, ci soffre un po' e poi già passa. Io vorrei tentare di fare, come si dice, di vivere il più bene possibile. cui se è cosa che ci posso fare? Vabbè, funziona così, insomma, inutile. Funziona così. Insomma, chi vuole più, ognuno a casa sua. È semplice. Capo. Senti, va sana sotto, dormi dai. Sta riposando. E via. Casino è Germania. E vabbè, adesso giù lo posso modulare a tutti. Fino a venerdì, gloria sta. Non posso lasciare le baracche in mezzo ai piedi, va. Anche se ha detto non lascio lì, non fa nulla, io lo devo staccato. Hai butto dentro un garage, l'hai butto. Sono dentro l'armadio. Allora, appena che si innanda, ti dovrò attaccare. Sono poi deciso, mi sento uno stacco da lì, se la piglia luci. Tanto. Esattamente, se mi dai, ma che cosa, che voce. Una volta non c'è più nessuno. C'è molto volte non c'è nessuno. Sono magari, stanno facendo prove in altre frequenze. Capito? Via. Cappa. Lieve, lieve. E beh, Natalia, tanto è quando decidi di piazzarla. E appena trovo qualche amico che mi dia una mano. Natalia, c'è acqua, ma... E io trovo anche la tua mano, Natalia. Bisogna se vediamo qui in tre in chivi, Tanto non lavora il sabato, la domenica si può fare, la domenica mattina. Se vuoi organizzati tutto, veniamo e te la facciamo, la piazziamo. E con chi? Con Antonio. Ah, e c'è anche un altro amico, va. Uno ce l'ho già. Devo organizzare il tutto, Natalia. Se Antonio è disponibile, non lo so. Ah, non c'è problema. Perché farlo in due è un casino. Se siamo di più è meglio. Ah, sto parlando di questa cosa, è buco un pesame. Bevo forza. Nah, legge la parola, Natalia. Ma cosa bevo forza? Che sa, l'ho salita io, da solo. Ci vuole uno sotto solo sopra la scala a infilarla dove la devo infilare, boh. Perché per tirarla salgo al piano, al secondo piano e la tiro da su io. Ah, lo sì. Boh, la verità, io l'ho vista così come piazzata, così, ma non ho capito bene come è fatta. Vabbè. Oh. E io también la giubbiata dell'azzurro. Vabbè. Qua è una cosa un po' particolare. Infatti devo buscarmi il tubo. Perché da mettere al posto di quello che c'è, perché c'è solo di un metro l'altezza. E io la voglio mettere più in alto, la Game Master. Poi la Game Master pesa meno di questa, pure. La Game Master, se non la buona infoguata, non rende, Te lo dico già. Che c'è gente che ce l'ha senza essere attaccata al palo, in terra, l'antenna. Figurati se la metto in alto. Appunto. Deve avere un po' di altezza. No, io non la metto. Stavo pensando di metterla, ma poi ho rinunciato. Perché ho paura, sono troppo leggere come antenna. No, che bisogna rispettare le misure. Se tu non rispetti le misure è logico che succede casotto. Bisogna rispettare le misure e lasciarla libera, perché c'è gente che ce l'ha anni e non gli è successo niente. Vabbè, vedi tu, cos'è quella della Sirio, la tua? E allora, l'originale ho comprato. Già costa poco, via. Ma a me mi serve un'antenna performante, che sia silenziosa, perché io qua c'ho QRM. Tu pensa, se uno ha Eugenio, per esempio, io lo sento basso di radio, e arrivi voce di segnale, però io vado l'usanza, e c'ho il QRM e senti a 8. Se non arrivi almeno a 9, non ti sento. No, qua non ho problemi del genere. Infatti la Game Master l'ho presa perché è silenziosa come antenna, capito? Poi la metto in alto e sento a tutti. Io ho problemi di ricezione, se mi sentono fino a Alghero, io quelli di Alghero non li sento. Guarda un po' com'è la situazione. Ah, lo so già, no, io già lo sento già. Perché tu ce l'hai libera l'antenna, io ce l'ho un metro sporge dal tetto la mia. È bloccata. Quindi se la metto più in alto la ricezione aumenta. Calma, prova. E cosa provo? Ah, ecco, quando la piazzi. Quando la piazzo logicamente la metto più in alto, no? Infatti devo buscare un tubo alto. E così quella dove è piazza, quello dove è piazzato me lo tolgo e ci piazzo quell'antenna piccola. Gaffa, gaffa, sicuro che io ti arrivo a bomba. A chi? Mi si rivende già a bomba. Allora, tu mi ha contattato che devo riparare un telefono a questo, capito? No, gli ha chiesto un po' di tempo fa. Gli avevo lasciato il mio numero, solo che poi un po' di tempo è passato. Ha deciso che lo vuole sistemare. Ah, ho capito. Ancora di Romia non mi hanno fatto sapere niente, Luca. Ma che telefono è? Un Redmi 9. Ma che cosa hai fatto? Che problema ha avuto? Il problema che mi cadeva la linea, non funzionava bene il sensore di prossimità. So che parole, cioè, lo sai che difetto mi faceva? A un certo punto non mi sentivano più la gente, io sentivo a loro ma loro non sentivano a me, mi bloccava l'audio. Mai ha avuto problemi del genere. Adesso l'ho portato in assistenza e ancora non mi hanno fatto sapere niente. Mi sa che domani ci faccio una scappata. Lo sai che i cinesi hanno dimenticato, i basci dalli grabbi. E basta di vino, e beh, dove ce l'hanno l'assistenza qua a Sassari? No, in continente l'hanno spedito, qua non ce n'è assistenza. Già lo so. Però pare che i cinesi hanno dimenticato. E la Apple lì? No, no, ci vado di persona al negozio. Ce l'hai tu le ricevute, come gliel'hai dato? Certo. Però poi già te lo portano. Ma passa via che ha puntuso. Caffa. Oh, proprio lo vedi graziato, a te l'hanno dato. Che vuoi che ti dica? Caffa. Ui, ui, ui. Convinto che anche mettendo la quana che master mi renderebbe, però io ho paura. A tu quel Rix che devo fare cosa? Ok. Andiamo via, andiamo. Cazzo. Anche io la volevo comprare con l'antenna, ma faccio paura. Ma che master? Eia. Ehi Antu, piace per la piazzare, la testa è giusta, bene. No, va bene con l'antenna, Non hai bisogno di fare tarattura né niente, già taratta. È perfetta, ce l'ha Gianni, è un buon boss antenna. Eia, c'è gara di vigna, ma già ce l'ha. Se mi si rompe la mia me la compro pure io. Vai, lascia stare quella, vai. Leggera, non ha bisogno di tiranti, non li pongo tiranti. Chiappa, ma eh? Ah, sai cosa mi aveva voluto comprare io per fare una spesa buona? Con quella che c'ha Claudio. Chissà si è un'antenna. E anche. La 7 ottavi. Sì, sì. Lascia vedere allora. Lascia vedere un attimino. Allora. Quella foto ti ho mandato tanto. Poi quella fa culturismo qua. Ma mi pare di averla già vista. Ma c'è una voce un po' strana. Due bucce. Ma non è che fa la terza, no? Mi hai sì. No, no, lui. Cosa no? Cosa no, tu? Non è buono. detto mia a te. No, no, ma sei un punisci. Ciao. Ma è una ragazza giovane, la stava a scuola nel 2011, cazzo 11 anni fa. Su Maria, Santa Maria di Betlemme, cazzo. Chi mi dipende, eh? Una razza. E la mamma la voce in fea. Come piace? C'è una voce un po' strana. Mi piace, senti. Capisco, io ho pensato che con quello fosse più facile. Sì, perché oltretutto l'ID Apple, così si chiama, giusto? Me lo dà anche, nel senso che poi... Ah, oh, che padre zancano! No, che sta pensando? No, non penso, no, non penso. Ma sentite il televisore? Si intende la televisione già. Non è morente. Chiappa. Cazzo che ne è fratello, capisci? Ma c'è la messa Zelig, mi pare. Oh, boh, vedere. No, c'è un bel film, c'è. Italia 1. Non è morente. Facendo lo dreno. E beh, pompetta. Dove passa il dreno? La macchina che te si è comprato. Dove l'ho comprato veramente? 300 euro. Cazzo, qual hai preso? È stato il Mecco e... come si chiama? L'auto. C'è un nome strano. Aspetta. Alicone 55. Alinco. Alicone c'è scritto, no, Alinco. Non si cura perché vuole. 5. Ah, la liturgia. La liturgia, sì. Un grande. Alicone, ma non si cura perché vuole. Su aso, in culo mi chiamano su un aso. Al raso. Ah, bruciato zio Antonio Bobolino. Vai. Sara, me lo dai 5 minuti a Antonio? È drumita. Allora io mi visi. Vabbè dai signori, io vi saluto che me ne passo in quei retti perché sta iniziando il film e me lo voglio guardare. Ma sono questi film strani, no? Di quelli erotici, tutti con i piedi di zoma che volano. Che si fa dei Ramos. Ciao a tutti, dai, correti per me. Ci sentiamo alle prossime. Ciao Natali, ciao. Ciao, risentiamo. Ciao Natali. Ciao Tacco, a Conci. Ciao. Dove sono andato? Già per un paio oggi. Allora. Ma cosa dice, fa l'assistente da tuo fratello qua, no? Certo, dai, ieri fa la bandata di mio fratello quella lì. Sono cretto, due volte. Hai capito? Cappa. Sì, ho capito. L'ha detto pure lei, l'ha detto che fa la badante. Infatti, è proprio quello. Si è comprato anche la macchina nuova. L'hai vista. Finché Giampiero Lula è a posto. Quando Giampiero non ci sarà più, voglio vedere come fa a pagarsi la macchina. Ma tu dici mila euro. Vabbè, no, ma già lavora, fa anche... fa due lavori e già ce la farà. Non vuol dire niente, no? Se torniamo in zona rossa, perché due lavori sono. Allora se li sono voluti davvero. Vabbè, finché si può. È appunto per quello, il discorso è quello lì. Ti puoi affidare lo Stato italiano, non hai capito? Ti prendi un prestito che ti date per dire una macchina 50, quindi se io avrei preso un prestito, ma anche se fossi stato lavorando eccetera eccetera, per conto del comune, cosa ne so cosa succede dopo? capito, cioè, il discorso è quello lì, non ti puoi fidare più. Ci lati di là, c'è della maglietta, non c'è problema. Vabbè, adesso vediamo un po'. Per il momento ce li ha, è a posto. L'altro già è tranquillo, sta uscendo anche in giro la sera. Vengono a prenderlo, caricano le cose chiare, lo portano a fare la passeggiatina. Ogni giorno la Ullus, capito? Si paga e sono soldi suoi, intanto di Giampiero, quindi Carmen lo esce ed è più tranquillo, se no in casa non si poteva neanche sopportare. Già non credo, già. Ma dico, ma si è ripreso moltissimo, perché c'è stato un periodo che era proprio in questione, che non andava bene. No, già si è ripreso tramite il coso, la verità, perché gli ho dato un paio di cuffie, i cd suoi, e ogni giorno si ascoltava la musica, finché non si è sistemato il cervello, perché prima proprio il cervello non c'era per niente, parlava da solo, parlava con... era sempre irritato, cosa del genere, poi quando è venuto qua a casa si metteva le cuffie, si ascoltava la musica e cominciava a ricordare, capito, ciò che aveva fatto prima, chi era, chi non era, che, eccetera eccetera, è venuto tranquillo come un coso è diventato. Adesso sembra un agnello, sembra, ma prima, quando era lì a Saggezza, era una cosa allucinante. Non sai cosa ha fatto a Saggezza, ha preso, guarda che una cosa, ma tu pensa lo fai, ha preso un comodino e l'ha spaccato, in due l'ha spaccato, l'ha preso, ha aiutato la macchinetta per l'ossigeno, quella l'ha spaccata in due, figurati tu, era proprio, non si poteva sopportare, l'hanno dovuto legare, l'hanno dovuto, capito? Poi un giorno era capitato che in pratica mi arriva, gli ho telefonato, mi ha detto che dietro l'accompagnamento del fratello non produce più, gli ho detto. E mi ha detto questi telefono, dopo due giorni mi fa, dice, suo fratello stava, dice, si voleva impiccare, mi ha detto, capito? Perché mancavano i soldi lì alla Saggezza. E mi ha dovuto portare, ha detto, guarda, detto, mi ha detto, il tempo detto, mi prende un letto, detto, da San Camillo e lo portiamo a casa. Mi ha detto, è dopo 15 giorni. Allora, perché lui si voleva suicidare, hai capito? Invece non è assolutamente vero, ho dormito io e Giovanna lì tutta notte all'ospedale. Ho detto, guarda, mio fratello se vuole succedere un accidente, sono tutte balletto di quelli là. Per carità, che personaggi. Purtroppo là, capito, ma la madre l'hanno chiusa, hanno capito, per i soldi, non per altro, non era una struttura seria, una struttura solamente per fare di là e basta, a un certo punto. A quel bambino di chi è? Il figlio di tua nipote? Il figlio di cosa? Di... non di mia nipote, in pratica è il figlio di Alessia, di mia nipote, esattezza, vabbè, come lo chiama. Scusa, non è tua nipote, c'è la sorella di cosa, ma c'è la figlia di tua sorella. Eia, già è così. Femmina, non maschio però, cioè tu è maschietto, lei già è femminuccia. Giappa, ho molto per... non ci avrà manco 20 anni, capizzina. 21 ne ha. Cavolo, il bambino quanto ce l'ha avuto? 18 quasi. Cappa, è ragazza madre, così è. Eia. E lui non lo riconosce. Io lo riconosce, a lui pure. Cazzo. Riconosciuto pure lui, non lei no. E lui proprio so, era i fatti suoi lui. Che vogliamo dire a Luca? Ha fatto di più ridda, capisci? E incominciai con l'età, secondo te, testa c'hai, lui. Quindi. sicuro fare un figlio a 20 anni, 23, 24, l'altro fare i 17, 18, 19, e il cervello c'è, non hai sul cervello, non sai come fare. Dimmi tu se hai mai cullato un bambino, a meno che non c'hai un fratellino, che hai avuto un fratellino, ti mette a fare il babysitter, allora sì che ce la fai a fare le cose. Sono stato tranquillo che non so mai come ricominciare. No, non è così, no, io soffrirei molto. Cioè, vabbè, io c'ho un'altra mentalità, dai. Io guarda, ho fatto il babysitter a Giovanna quando è nata, quasi un anno e mezzo, quasi due per esattezza, 24 su 24. Vabbè, io Giovanna è nata e praticamente io già prima sono usciva, andava in giro per i cazzi suoi a divertirsi. Io stavo a casa per il bambino a cullarlo, addormentarlo, dargli da mangiare, eccetera, eccetera, capito? Perché la mentalità di mio padre era quella. E quindi cambiavo i padrini e a Giovanna e quindi sapevo come fare, meno male. Diciamo come lezione mi è andata bene, anche perché se tu dovessi capitare per dire che c'hai una persona che sta male, che è anziana, che ha lottato e cose del genere, sai come comportarti, capito? E che adesso si dimentica qualcosa, sai come cambiare il pannolino, se non fa di male, eccetera, eccetera. Tutto lì si è lottato. Già lo so, già. Se è così, però dico, i bambini sono sempre bambini, io ce l'ho sempre pensata così. Se io devo avere un bambino me lo tengo, è come sarei il più felice di questo mondo, guarda. Non credo molto, i primi due anni stai tranquillo, perché non dormiresti neanche mezzanotte per... Quindi, se essi felice sì di averlo, però la questione è, tu devi fare ciò in pratica, i turni tra te e tua moglie, quindi... A un certo punto quando vai a lavorare a costruire le bombe sei tranquillo che quando stai a posto di ricollettarti alle 10 e mezzo, 11 di notte, ti ricollitti verso le 3 4 del mattino a portare le bombe, ti vedo un pochettino in salita, te lo dico io. Si fa il sacrificio, cosa devo fare? Lo butto nella mondezza, non ci penso neanche per sogno. E appunto per quello, io l'ho già sopportata questa cosa qui e quindi so come comportarmi. Se avessi avuto un figlio, dopo finire le ho. E quindi, se no sei rimasto anche alle, fino alle 8 del mattino in giro, cosa me ne frega a me, in piedi, in casa. E siccome Giovanna l'ho cresciuta io, quindi, a parte poi mia nipote, eccetera, eccetera, quando Giovanna me la portava a casa, la tenevo io a casa, con suo figlio Emanuele, la tenevo anche per due o tre giorni, quello che era, e stava bene, hai capito? Quindi non era sempre controllata, era tranquilla, sapevo come tenere una bambina, capito, è un bambino. In quanto invece quando uno ha una coppia giovane che non sa neanche dove cominciare, il problema è quello, deve andare in posa, di chiedere come, cosa devo fare per tenere il bambino, come tenere il bambino, eccetera, eccetera, come una volta che l'ho latti, poi per non avere il rigurgito, e ci sono tante cose, capito? Tu ci devi pensare quando eri più giovane. Va. Vabbè, ormai la vita me l'ho fatta e se ne piglia in culo. Hai capito? Senza avere soldi cosa fai? Avere un figlio? C'è un sacco di coppie che sono così, mi assassari ormai. O ti fai solamente un figlio per sbaglio e poi prendi a un certo punto, magari lui viene licenziato, ormai la tassa è quella. O butti fuori a lui o ti butta fuori lì, il discorso è quello. Non mi ricordo più troppo tu negli anni che hai lavorato. Hai lavorato da persone disgraziate pure. Se lavoravo in una ditta seria, dai, sei stato bene, non ti preoccupare. Ebbene, quello già è vero. Dopo 2000 io me l'avevo ritirato, mi sarei campato mio figlio, anche se sarebbe stato anche grande, meno tranquillo a quest'ora. Io avevo avuto 18-20 anni come minimo, lo dico io. Purtroppo quel periodo lì era quel periodo che c'era e va a far culo, insomma sto bruciato, se ne ha avuto le conseguenze, cosa vado a dare il culo a caso, cioè a un certo punto non conviene neanche avere un figlio, devi stare purtroppo così com'è. Il problema è che quegli anni lì erano gli anni che aveva un'obbedienza ronfia vera nel lavoro. Adesso sì, non ci sarà più il lavoro di prima, c'era tanto lavoro e tanta gente ronfia, adesso c'è meno lavoro e diciamo che qualche ditta già un po' più seria, dai. E non la sai, non ti preoccupare, lascia perdere. Oggi è per Luca da loro, secondo a togliere l'acqua dalle olive, quello da svuoto. Capa, io tra un po' mi faccio un po' di passaggio e me ne ando a letto. Il problema è che uno deve essere onesto, capito? E lavorare, deve chiedere se sono i tuoi soldi e via, senza fare un macco. Avanti lui. Ehi, Yala, io vi saluto. Ci sono quel cane, no? Possiamo sentire a me parlare. Poi c'è anche la radio un po' alta. Se non andrò mi rompo le balle, mi devo dormire, tu io sono tutta la notte. Dai, ci sentiamo domani Antu, ciao Pompù, buonanotte, ciao. Ciao, buonanotte a tutti, dai. Cioè io vado e mi ti dromo un po', sono un bel stanco. Ciao, ciao, ciao, buonanotte. Eia, sono entrato. Quindi, questa foto qua è simile a quello che mi ha guidato tu là. Diciamo come uscita, esce bene come quello che mi avevi dato una volta tu. Bombo.